Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono. Stiamo parlando di Smart City, per il cui successo è necessaria sicuramente un'edilizia molto più parca nei consumi energetici. E ci sono due casi a questo proposito in cui ci siamo imbattuti noi di Smart City che ci pare interessante ricordare. Il primo riguarda una scuola vincitrice del premio In Opera voluto da ANCE Giovani. Ci sono 44.000 scuole in Italia per un totale di 100.000 edifici. Moltissimi sono dei veri e propri colabrodo energetici con costi esorbitanti di gestione, per non parlare degli edifici che cadono letteralmente a pezzi. La scuola di cui vogliamo parlare è la dimostrazione plastica che intervenire su questo patrimonio è possibile. Si tratta della scuola di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, che non solo è molto bella, tanto da aver vinto questo premio, ma è pure in classe A+, quindi consuma pochissimo, ed è stata realizzata, pensate un po', con una spesa inferiore ai 1000 euro al metro quadro, arredi inclusi. Per spiegarci come si fa, ho intervistato a suo tempo l'architetto Maria Alessandra Segantini, partner dello studio architettonico CPS che ha progettato la scuola, nonché docente al MIT di Boston. Sentiamo. Io do grandissima importanza alla fase di progettazione, quindi tutta la parte dell'energia non è qualcosa che si aggiunge a un progetto architettonico, ma è qualcosa che nasce con il progetto architettonico. In questo senso il costo viene in qualche modo distribuito e pensato fin dal primo segno. Dunque, Segantini, spesso è il bando pubblico stesso che, come dire, ammazza nella culla ogni possibilità di fare cose innovative, come è accaduto in questo caso. Allora le chiedo, c'è qualcosa che deve assolutamente esserci nei bandi che gli amministratori pubblici propongono, qualcosa anche che invece assolutamente non deve esserci? Due cose fondamentali. Uno, la difesa del costo di progettazione, in modo che le imprese siano in grado di proporre quanto c'è di meglio nel mercato nazionale o internazionale. Ecco, come si fa però a difenderlo questo? Ci sono vari modi. In caso dei project financing si può tutelare il costo di progettazione facendo in modo che la stazione appaltante paghi direttamente la progettazione e non passi attraverso l'impresa, quindi la progettazione non sia soggetta ad uno sconto. Quindi insomma non possa speculare, lasci dire, l'impresa sulla progettazione, anche fissare un costo fisso, insomma, no? Dire che comunque quei soldi lì per la progettazione li spendiamo e a quel punto si fa magari la progettazione migliore. Altro? La seconda cosa è la tutela o il controllo dei costi di gestione, cioè è importante che chi costruisce sia responsabile della manutenzione dell'edificio per almeno 10 anni. Se riesce a garantire questo, significa che avrà fatto una buona opera. Altro tema purtroppo drammatico è quello delle risorse. Sappiamo bene che questo non è proprio un periodo felice, e allora bisogna un po' inventarsi anche dei modi per finanziare queste attività di ristrutturazione delle scuole, che sono davvero fondamentali. Lei ha qualche idea da proporci? È necessario ritrovare all'interno della scuola e dell'edificio scolastico la risorsa, ovvero ripensare in termini di plurifunzionalità. L'edificio scolastico è un edificio che viene utilizzato solo al massimo fino alle 4 del pomeriggio. Certo. E quindi, per esempio, il tempo dalle 4 fino alla sera e anche oltre per alcuni altri servizi può essere aperto alla comunità e diventare un elemento di risorsa. Mi immagino per esempio che noi utilizziamo sempre dei capannoni industriali per far fare le feste di compleanno ai nostri bambini, e che se queste fossero incorporate invece all'interno degli edifici scolastici con una progettazione intelligente che permette di utilizzarli oltre l'orario scolastico, diventerebbero una possibile risorsa. E se invece parlassimo di un condominio colabrodo energetico, un condominio però già abitato? C'è un problema: dove li mettiamo gli abitanti del condominio durante la ristrutturazione? C'è un progetto, si chiama Progetto Swap, e cerca di rispondere esattamente a questo problema, come ci spiega l'ingegner Francesco Paolo Ausiello, direttore tecnico della rete Alta Tecnologia dell'Emilia Romagna. Sentiamo. Gli inquilini vengono trasferiti in una collocazione in città, in appartamenti già arredati completamente, e i mobili invece prendono un'altra strada e vengono quindi depositati in un luogo sicuro, in modo che non ci sia bisogno di fare degli aggiustamenti negli appartamenti di destinazione, bensì soltanto trasportare gli effetti personali. Dunque, quindi, dicevamo, gli inquilini si muovono verso questi appartamenti e rapidamente ne prendono possesso. In contemporanea